nel 2008 muore a 65 anni Richard Wright, tastierista del gruppo, cuore della band, cui Gilmour e Mason dedicano l'ultimo album. David Gilmour e Nick Mason si ispirano alle sonorità di The Division Bell. L'album contiene un testo scritto da Polly Sampson, moglie di David. Il primo singolo è Louder Than Words, un brano strumentale che catapulta la musica dei Pink Floyd nel XXI secolo.